adesso grossolanamente, che l'allenatore di Prima Marino guidava la squadra col consenso dello spogliatoio. Sì. Guidolin invece ascolta lo spogliatoio, ma poi decide lui, in modo categorico. Uh-huh. Pertanto forse questo impatto, no, in un primo momento di cambiamento è stato un po' duro da recepire per la squadra, sì, ma una volta entrati nell'ingranaggio abbiamo visto che razza di risultati poi hanno fatto. Pertanto io in questa performance, chiaramente che si dà grande merito alla società perché poi lo ha confermato nonostante le quattro sconfitte, grande merito a Guidolin in assoluto, però ricorderei anche Marino che in fin dei conti ha svezzato molti di questi, Sanchez, Isla, Himmler, certo, Asamoah, no, li ha tutti un po' svezzati lui facendoli nei due anni precedenti giocare direi sempre, e pertanto in questo grande risultato è giusto ricordare, credo che il fair play deve sempre dominare, giusto, un piccolo ricordo nei confronti di Marino ritengo che sia giusto farlo.